mamma che emozion. Sembra siano le 7:00 e pochi secondi. Questo dettaglio mi arriva preciso da un orologio che compare negli studi di Rock FM. L'ora è giusta anche perché si spengono i lampioni della notte di Milano per dare il via a una nuova giornata. La voce rotta dall'emozione che potete sentire nel caso voi siate sintonizzati su Rock FM, questo è il nome della stazione radiofonica, è la voce dell'Ariele, del DJ Ariele. Sì, forse vi ricorderete di me per trasmissioni culto come, non so, la prima stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, oppure, che ne so, una prima premiata. Vi ricorderete di me per aver fatto le prime trasmissioni di Easy Rider, e ancora qualcuno mi maledirà avendo accompagnato in questa stazione radiofonica il collega Mox Cristadoro. Beh, cos'altro posso dirvi? È lunedì, è il 3 di settembre 2007 e che voi lo vogliate o meno ci hanno affidato nuovamente il mattino di Rock FM. Vi tocca, amici, vi tocca, amiche, la seconda imperdibile stagione di Pane, Burro e Rock and Roll. Ai! La trasmissione con la sigla più bella dell'etere, questo dovrete ammetterlo, è innegabile. Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Riprendono le dirette. Pane, burro e rock and roll, fino alle 9 del mattino. It's every good in. Già sai. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Quanto mi è mancato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Eccolo lì, il solito egocentrico del cavolo che parla solo di sé, quando invece la trasmissione è costruita mattone per mattone da un po' di persone. Però, visto che sono il primo a partire in voce, volevo salutare io, così per iniziare. Un saluto anche al nostro buon Spadino, fedele regista già della prima stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, e riconfermato anche per la seconda. Buona giornata, caro Spadino. Un essere umano raccattato a Rock FM, come si faceva anni fa con gli orfanelli, no? L'abbiamo trovato in una ruota qua fuori e gli abbiamo fatto fare il regista, eh? Andate bene le vacanze? Sai già dove mettere le mani? Adesso vedremo cosa succederà nella prima diretta. Andrà a riprendere le distanze e quant'altro. Chi altro salutare se non Roberto Fricantoni? Vi ricorderete di lui, essendo voce degli Schiantos, già formazione di culto della musica rock italiana. Vi ricorderete di lui per altre stupidate. E anche lui torna a trovarci in questa seconda stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 01 oppure puntata 79. Continuiamo a contare da dove avevamo finito o riprendiamo? Questo è già il primo dubbio di Pane, Burro e Rock and Roll, una trasmissione che si pone dei dubbi. Thank you. Che inizione, inizione al ritmo del buon rock and roll di Joy D e la sua shout. Pian piano comincia una nuova giornata, è fatta ragazzi, siamo stati arruolati nuovamente. Inizio particolare quello di quest'oggi, visto che, come intravedo da alcuni messaggi giacenti nella notte di Rock FM, qualcuno si è accorto delle piccole imperfezioni tecniche che sono accadute a Rock FM nel corso del weekend. Chi conosce la nostra trasmissione, chi mi conosce, sa del strano rapporto che ho con le nuove tecnologie, con quegli affari a forma cilindrica che rispondono al nome di computer, se non ricordo male. Bale, benvenuto in questa nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll. Mi è stato dato dal computer. Voi che lavorate saprete quanto ci siano diverse categorie di computer, no? Il computer, quello, non so, che utilizzate per Word e basta. E poi uno, massimo due computer che tengono in piedi la baracca, proprio quelli più importanti. Ecco, oggi quello proprio il vertice della piramide d'importanza dei computer di Rock FM ha abbandonato, come si suol dire, ha tirato le cuoia. Quando sono arrivato in studio questa mattina c'era Marco Garavelli che lo prendeva a calci dopo aver tentato. Garavelli che prende a calci un computer, non lo avevo mai visto, quindi sicuramente lo aveva fatto innervosire più del dovuto. E quindi dedichiamo la prima puntata al computer più importante di Rock FM, che quest'oggi ha deciso di abbandonarci, sperando invece di colmare il vuoto dell'abbandono di questo computer con l'affetto dei nostri radioascoltatori. Il solito vecchio professionista, il DJ Ariele, che vi ricorda il numero di SMS 335 100 77 77. Riprendiamo il gioco del gruppo d'ascolto. Da dove ci state ascoltando? Cosa state facendo? Siete nuovi amici di Rock FM? Beh, allora benvenuti. Quello è il numero di SMS. Ricordo volentieri anche una casella di posta elettronica, che è ariel@radiorockfm.com. Cedo il passo alla buona musica di Rock FM. Sentite un po' qui il buon David Bowie, il miglior risveglio che voi possiate trovare in circolazione. Vi sfido, girate pure, andate a cercare nelle altre radio dove la trovate Rebel Rebel adesso, così d'amblè, alle 7 e 9 minuti primi. Roberto Fri, eccolo là, c'è anche Freak oggi. Allora la frittata è fatta ragazzi, è andata. You want it. colazione rock. Thank you. È un duro lunedì di settembre, il primo duro lunedì di settembre, fortuna che torna a tenervi compagnia pane, burro e rock and roll con l'Ariele, ma soprattutto con Roberto Fricantoni. Un abbraccio fortissimo! Un grande ritorno! È bellissimo ritrovarla così in forma, DJ Ariele! Ma lo sa che non ha nemmeno una ruga? L'ha visto. Ma lo sa che è proprio, la trovo disteso. Bello. Bello. Sì, la trovo carino. Come dire, barbuto. La trovo barbuto. Sì. La trovo in grande spolvero. Le come va si di dice. Iniziare la stagione col piede giusto? Assolutamente no. No, eccola, il solito vecchio furbone Roberto Fricantoni. Scusi, se avessi detto sì sarebbe stata una risposta banale. Prevedibile, banale, assolutamente banale. Ma in realtà lei sa benissimo che mi va e come di iniziare con l'almanacco. Oh, che nostalgia, Spadino, arridacce la base dell'almanacco. Che accadde il 3 di settembre, oltre che la ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll? E accadde questo, il 3 di settembre, ma del 1895, si giocò la prima partita professionale di football americano senta che pronuncia, a Lathrobe in Pennsylvania. Ma lei ha studiato, si sente. Durante l'estate mi sono applicato. Passiamo a un'altra curiosità. Spostiamoci al nord. Ma sì, un'altra curiosità. Lunedì 3 settembre del 1967, Dagen Age, giorno H in Svezia. Si potrebbe dire anche giorno... Giorno aspirato. Lei sa cos'è il giorno H in Svezia? Non lo sapevo, dico la verità. Il traffico passò dalla guida a sinistra a quella a destra. Aia. Che non è facile, sa? Non credo, prevedo guai. Lo fecero perché in realtà tutti i paesi circostanti già avevano la guida dall'altra parte. E soprattutto perché tutti stavano già guidando macchine con la guida dall'altra. Cioè avevano il volante di lì ma guidavano certo. di là. E nonostante questo deve sapere che il cambiamento fu molto impopolare, perché si era già tenuto un referendum che aveva rifiutato il cambiamento di guida molti anni prima. Nel 1955 l'83% votò per mantenere la guida a sinistra. Ma in realtà nel 63 ce la fecero ad approvare questo cambiamento e ci fu per l'appunto il giorno H. Si è mai chiesto, ma come hanno fatto a dire ok, da quell'ora cambiate? C'è la spiegazione. Il 3 settembre del 67 alle 4:45 i veicoli si sono dovuti fermare, si è passati tutti dall'altra parte, si è aspettato 5 minuti, che è il tempo, metti che uno non gli si accendeva la macchina, il trattore, eccetera, tutti di là e si è ripartiti. Ma interessante. Potremmo una preparazione anche in Italia. No, la preparazione H è un'altra cosa. Il solito furbetto. Fortuna che è tornato, Fri. Sì, mi piace questa trasformazione, questo cambiamento, questa guida dall'altra parte della strada. I'm Jefferson Starship e la loro Runaway. No, non seguite il loro consiglio, non scappate altrove, restate con noi di Rock FM. Vi ricordo il sito internet attraverso il quale potete anche gustare pane, burro e rock and roll, che ne so, in Australia, grazie all'effetto streaming, www.radiorockfm.com. Dicevo, non scappate, colate pure dell'attacco, qualche altra diavoleria appiccicosa sulla manopola della vostra autoradio, del vostro apparecchio radiofonico, perché siamo tornati e da qui fino a quando il nostro contratto durerà vi terremo compagnia nella mattina di Rock FM in rigorosa diretta dalle 7 alle 9. Ho velocemente ricordato il nostro numero di SMS, come è giusto che sia. Molti già gli amici che ritornano, insomma, sembrate volti noti. Il primo, uno su tutti, il nostro gruppo d'ascolto Uomo Cane. Sono presenti entrambi, uno contento, l'altro scodinzolante. I ringraziamenti per il nostro ritorno. Qualcuno ci sgrida per la pausa troppo lunga. Sono stati giorni bui, ma siete tornati. Insomma, messaggi da bentornati. Fa piacere. Un saluto anche a Oscar, da poco tornato dall'Independent Day a Bologna e già in piedi in direzione Miniera. È così che vi voglio. Rocker senza bisogno di dormire, ma con bisogno solo di sana, buona musica. Quella che vi daremo fino alle 9. Nessuno ancora si è fatto una domanda fondamentale. Ma Mister Trombetta e la mucca Camilla, che fine avranno fatto? Eh no, è importante. Che bembe che c'è. Lo scopriremo tra poco nello sviluppo di pane, burro e rock and roll. pane, burro e rock and roll. Ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal talco. Pane, burro e rock and roll. La forza delle gengive, la vita dei denti.